questa è la Sense SB50, quello 23 canali, i watt sono quelli della radio, praticamente 10 watt. Va bene, va bene. Salutalo e se mi ascolti Gianni ti faccio tantissimi auguri di buon Natale e spero che l'anno nuovo insomma riesca a fare di meglio un po' per tutti, dai. Non c'è problema, non c'è problema Gianni. meglio di come ti ascoltava prima, considerando che stai utilizzando un baracchino. Dice, c'è un segnale fortissimo, molto, molto pulito, la modulazione non ha niente da dire, a dirti questo, mi ha detto Gianni. Ci picchia, non lo so, questo è un vecchio baracchino 23 canali base, un Seas SSB50 base, poi il microfono è un Tanner P3 Super Sideric, capito? Un Tanner P3 Super Sideric. Yeah. Ok, un attimino, mi hanno suonato il campanello, riprende Roberto. Hai sentito Gianni quello che ti stava riferendo Gianni, Claudio, le hanno suonato il campanello un attimo. Ciao Roberto! Ah Giulio, buonasera Giulio, ben sentito dopo tanto tempo. Lo senti Gianni da Chiaramonti? Scusa se non ho sentito il break. Sì, lo sento, per un attimo ci siamo sovrammollati, cioè hai fatto per un attimo a schiacciare mentre io chiamavo Gianni. Vabbè, sì che ti sento Gianni, sono tu, mi hai sentito, sentiamo solo Radio 5. E allora vabbè, come va? Già va bene, dai, ho avuto poco tempo per mettermi qua sulla radio, oggi ho detto, dai, lo sto facendo ora. Stasera siamo invitati da mio cognato a cena e vediamo un pochettino, detto, dai, accendo un pochettino la radio, spero che ci sia qualche amico, guarda caso se è capitato tu Claudio e l'amico Gianni da Chiaramonti, non so se ci sia qualche durato, comunque io darei un attimino di bianco e vedere un po' se qualcuno vuole entrare, avanti chi vuole entrare sul 10. C'è nessuno quanto sembra. Allora io faccio Jack lo svelto col dito. Allora, Robe, come va la vita? Tutto bene, sì? Non ci possiamo lamentare, diciamo, sperando che questo sia l'anno brutto, diciamo, perché non sono state tanto belle le situazioni nel 2011, dai, non è stato un bell'anno per tante cose, poteva andare meglio, sperando che il 2012 sia molto ma molto migliore di questo, dai, non ci lamentiamo, non facciamo i tristi, le persone tristi, dai, pensiamo che arriva un altro anno che sarà migliore di questo, sempre non ci sia la fine del mondo, come dicono qualcuno, io non vi credo, comunque, se dobbiamo morire, ricordate che non stiamo male, moriamo di colpo. Ok, vabbè, solo non ce ne accorgiamo allora, se così deve essere, no, quante stupidaggini che si raccontano in giro, mamma mia, è possibile. Proviamo un po' a Gianni, avanti Gianni, sentiamo se internet torna in 5, ci sento benissimo oggi, dai. Ti sento bene oggi, sì. Cosa hai combinato? Qualcosa hai fatto però, perché l'ultima volta facevo fatica a sentirti, invece oggi ti ascolto molto bene. Ok, tu già mi senti bene, dimmi se sta andando bene, se no vengo lì con un bastone e se ne butto giù l'antenna. scusami. Perché con 4 anni riesco a capire perfettamente tutto quello che dici, anche se come intelligibilità non è che sia un granché, però c'è la potenza, nel senso che riesco a capire benissimo tutto quello che dici. Poi va a cambiare, a mettere il DM20, come si chiama, DM100, il vaso del corpo, c'è l'amplificazione, l'ultima è la pera, ma una puntina solamente di eco, mi metti, che sono convinto che esce meglio in radio. Ma così è la Sina, così è la Sina, così non... sì, ti sento sempre bene, però è la Sina così. No, non hai capito, tu hai il DM1000, hai il microfono, quello lì è anche con l'eco, no? Se tu aumenti l'eco appena, una puntina per dire, non troppo, perché se troppo non vedi tutto, ma solo una puntina di eco, sono sicuro che come radio sia più pulita, più chiara. Tutto quello che dici senza nessuna difficoltà, va bene, dai, non fa niente, vuol dire che comunque troverai la posizione giusta di quel microfono per poterlo usare al meglio, vai, va bene. Ciao, vediamo se è rientrato Claudio, ci sei ancora? Si sono sovramodulati uno con l'altro. Un attimino. Oh Gianni, scusa un attimino, ti hanno sovramodulato, c'è qualcuno che vuole entrare. Un attimino, ve lo facciamo entrare, vediamo un po'. Avanti, chi vuole entrare? Chi è che vuole stare parlando? Avanti. Stavi chiudendo, ripeti Gianni, perché non ho capito tutto il passaggio. Hai detto che stai chiudendo, è arrivata gente, o sbaglio? Tutti gli auguri anche da parte mia, ti ricambio tutto al 100% a te e a tutti i tuoi cari, dai, non c'è il problema. Ti rilascio a Giulio per i saluti, ciao, avanti Giulio. Ok, ciao Gianni, saluto io allora, auguri un buon Natale anche a te e famiglia, alla prossima, ci sentiamo eventualmente domani, ok, perché Claudio c'era poco fa, non è? Sì, si è allontanato perché ci è arrivato gente, poi non so se sia ancora impegnato, avanti Claudio, ci sei? C'era qualcuno che stava parlando sopra quando stava parlando Gianni, vediamo un po' chi è che vuole entrare, avanti in compagnia di Roberto qua e Giulio dall'altra parte, avanti chi vuole entrare. Chi era l'amico che ha modulato poc'anzi? Ma sei tu Benito? Non è arrivata una modulazione bassissima, tutta confusa, tutta sblatterata, qui con Santiago 3 è arrivata da dove? Ho capito che stava parlando ma non ho capito precisamente che cosa diceva, perché la radio era proprio tutta messa male. Chi Benito era? Non lo so, mi era sembrato, ma non posso confermarlo perché non ho capito assolutamente una parola di quello che ha detto. Come mi è arrivato come se domani fosse in FM oppure in un canale adiacente, capito? Infatti anche io non ho capito niente, si sentiva parlare, ma mi sembrava più qualcuno di Alghero a me da segnale, perché era abbastanza forte, era 9 qua il segnale. Lo so, vediamo se vediamo. Ah, ma tra l'amico c'è qualcuno che vuole entrare su questo canale? Guarda, mi auguri, faccio bene anche a lui. E beh Giù, cosa mi racconti? Come sei organizzato per questa notte? A casa, sono organizzato sembra che siano, non ne dubito, gli amici se sono a casa tua sono sempre ben accetti, non c'è problema con lui. Guarda, poi che si sta sereni eccetera eccetera, che in realtà le viene una volta all'anno, per cui è meglio passarselo con gli amici e con i parenti più cari. Certo, infatti lo scudo di campanello dal basso era arrivato, sentite, adesso non so che sia, comunque, perché io sono nella buonanotte e il campanello è giù nel salone. Vabbè, non so che sia, ma forse mia figlia con mio genere, non ho capito bene, non si capisce. Dice propagazione, il campanello propagazione. Il campanello di propagazione saltava di sotto, sì, e forse mia figlia, sì, che ho sentito la sua voce adesso, sì, è lì. Capano, se devi andare via non ti preoccupare, dai, non ti mette nessun problema. No, ancora no, intanto via, no, deve arrivare tutta la banda, dopo deve arrivare, pronto. Mia figlia era solo uscita un momento, capito? E dunque, però adesso è arrivato con fidanzato, di conseguenza il primo ospite è arrivato, poi continuerà ad arrivare il resto. Poi è arrivato la combricola. Sì, sicuramente così. E va bene, tutto bene. Ma speriamo che sia un buon anno il prossimo, Robe, cosa vuoi che ti dica? Quest'anno in realtà non è stato neanche a ogni modo. Siamo anche abituati a lamentarci, sinceramente siamo abituati a lamentarci, anche perché non siamo mai contenti, tutto sommato, però questo non si può dire che ci sia gente, che ci sia stata gente quest'anno che è stata veramente male, agli effetti dell'economia, eccetera. Speriamo che tutto si risolva per il meglio, al più presto possibile, possibilmente al prossimo anno, speriamo bene. Speriamo di sì, anche se a livello economico io penso sia un po' più triste la cosa, più tragica la situazione. Me ne sono accorto da un paio di anni a questa parte, che prima certe cose te le potevi permettere, adesso piano piano devi stare un po' attento quando fai certe cose a calcolarti bene quello che c'è dentro il portafoglio, perché prima magari ti potevi permettere altre cose, adesso piano piano si sta notando che per dire, quando andavi ogni settimana a mangiarti la pizza, andare fuori a cena, adesso devi ridurre, perché sennò poi alla fine ci esci di fuori. Sì, bisogna stare molto attenti, non sono tempi da fare follie con i soldi, eccetera, no. Anche se, a dire la verità, in questi giorni nessuno guarda troppo alle spese, perché lo sappiamo, noi a Sassa, il Polo di Sardegna, e dire al massimo siamo tutti così, abbiamo fatto questa ricorrenza, non è che la dimentichiamo così da un anno all'altro, facciamo sempre le solite spese, per quanto poco uno possa spendere, sempre le spese parte sono, questo è scontato, perché si compra di più sia a livello di alimentazione, sia a livello di regali, tutte queste belle cose qua, ma vabbè, siamo bravi. Sì, quello puoi dire ben forte, va. Il Natale probabilmente è l'unico giorno dell'anno in cui i soldi che spendi non sono rimpianti, nel senso puoi rimpiangere di altre cose, ma i soldi del Natale per i regali, a me forse è la festa più bella di tutti, perché non perché ricevo i regali a chi non me ne ho fatti nulla, anche se qualcuno me lo fa sempre. Fare i regali, avere il piacere di fare regali alle persone è la cosa secondo me più bella di tutti. Più di che riceverli. Non so se tu la giudichi come me la questione, a me piace più fare i regali che riceverli, per cui a Natale quando ho speso anche un po' più del normale di quanto spendo mediamente in 2-3 mesi e li ho spesi tutti in una volta, è solo un piacere, anche se alla fine ti rendi conto che sono un sacco di soldi e coi tempi che corrono bisogna stare anche attenti a quello. Sì, anche io la penso così, perché è difficile, io infatti lo dico sempre, non mi fate regali perché poi io non me ne faccio, poi invece è tutto al contrario, comunque il concetto è quello, la prassi è quella, perché per cercare anche di non far esagerare le persone, perché lo sappiamo benissimo che alle volte si esagera anche, no? Se non è, perché uno non basta anche un oggettino a niente, basta per poter diciamo essere apprezzato, invece alle volte si fanno delle spese pazze senza motivo, insomma, e quello che sei, sinceramente fa sempre piacere ricevere, questo è vero, però oggi con oggi è meglio andarci molto ma molto piano. Certo, naturalmente, soprattutto poi molte volte per non mettere a disagio le persone a cui hai fatto il regalo, magari ci rimangono male, loro magari ti fanno un regalino o addirittura a certe volte non possono permetterselo, e anche essere anche attenti pure come si fanno e a chi si fanno i regali. Beh sì, questo sì, indubbiamente, beh, è chiaro, i regali si fanno un po' ai parenti più stretti, è chiaro, questo è ovvio, non è che uno si mette via a spendere perché caspita, sarebbe bello se uno potesse farlo, fare regali a tutti, così magari incontri uno qualsiasi, così sì, puoi fare un amico di pregio, diciamo, per farlo poi a una figlia, un figlio, a un fratello, una madre, tutte queste persone qua, sì, indubbiamente, ma magari puoi fare regali a tutti, con il tempo che corrono e con quello che costano i regali, anche per evitare le volte, perché a volte ci sono, anche con le persone, dice, io vedo che io mi regalato, ma io lo dico personalmente, poi lo posso anche prestare e magari posso anche lamentarci con altre persone, capito? Allora, meglio andarci piano, rimanere sempre nei limiti, senza mai di esagerare troppo. Condivido al 100%. Ok, adesso facciamo un attimino di bianco, facciamo una chiamata di nuovo sul 10, se qualcuno nel frattempo si è inserito o si vuole inserire, avanti sul 10 può entrare, se no riprendi tu il mic, avanti sul 10. E riprendo io, non entra nessuno. Ma se può compiacere Claudio, non credo che abbia spento. Claudio, avanti. Claudio, chiamami, vieni avanti. Ma niente, Claudio. Dì una cosa, ma questo quel microfono famoso è giù. Questo qui è quello meglio, quello autocostruito è meglio. Che lo sai, ero quasi sicuro al 100%, questo mi sembra quel microfono bello, quello che avevi fatto tu, però non quella d'arte, quello sarebbe da fotografare, pubblicizzarlo e farlo vedere a questi appassionati che stanno su, sempre su internet e cose, veramente è un bello oggetto. Vabbè, sì, si può anche fare, anche se io il computer non lo so usare, ma io penso anche su, ma non me lo frega niente, no, ma se io non sono amico, non voglio fare nome, perché mi ha detto no, non fare nome, dice, vendilo, facciamo una volta prendo, nemmeno se mi ha 200 euro, non ti vedo più brutto, guarda, assolutamente, e tu che fai? No. Non lo faccio tutto perché non ho nessuno bisogno di farlo, anche perché a fare lo schifettino mi viene male e adesso da vicino ho bisogno sempre di occhiali e dunque no. Vado per lì, non lo tengo, l'ho fatto tanto negli anni passati, ne avevo fatto una cinquantina negli anni 70, negli anni 70, 75, una cosa così, sino a quel periodo lì, anche sino agli anni 80, ne avevo fatto almeno una cinquantina, ne avevo dato un po' a tutti. Anche gratis mi hanno guardato, ma basta, non lo voglio più sapere, anche perché non ho più quella pazienza e soprattutto non ho più quella vista per poter vedere le sagrature da vicinissimo, capito? Perché dopo un po', anche se ci vuole benissimo con gli occhiali, ma dopo un po', quando sono molto attento, ecco che mi stanca, insomma, proprio parole, no, va bene così. Addirittura hai fatto una 50, ma di questo in legno sta parlando? Allora, con questo, non è questo microfono che io, allora, una cinquantina, per una cosa o l'altra, mi facevo, non solamente, lei mi ha anche dentro una scatoletta di 7x7, 8x8, di alluminio, con il microfono originale, stesso, no? Nel baracchino e si faceva solamente il circuito amplificatore, si metteva, si collegava e funzionava così come quello in legno tranquillamente, non c'erano problemi. Questo microfono si applica molto bene, si adatta molto bene all'HB23, al vecchio HB23 oppure all'MIT da base che avevo io una volta, quello orologio grande, proprio grande come grande quanto posso dire, quanto in Galaxy così grande, Saturno, ecco, così grande era, però era tutto quanto grigio, argentato più che altro, e si adattava molto bene lì, e poi si adattava bene anche a un baracchino chiamato Catalina, il Catalina è un baracchino che non ha smito, non ha niente, a malapena ha due poverini, tre poverini, compreso quello dei Canari, si adattava molto bene, ma poi lo stavo cercando lo schema, lo sai, non sono riuscito a trovarlo. Non sono riuscito, però già sono anche di voi già detto poterlo sapere, è la verità. Ma lo schema di che cosa? Di che microfono stai parlando? E questo microfono autocostruito è un microfono, questo, cioè il circuito è un microfono dalla SBE, è stato una volta, avendo un atto di separazione, è stato copiato il circuitino e gli è stato rilevato tutto il circuito elettrico con valori eccetera eccetera, no? Ed ecco che da quel punto a quel punto lì è nato il microfono legno, capito? Ah, quindi è un SBE, io ce l'ho l'SBE, è stato modificato, infatti anche io di lì dovrò trovare lo schemino. No, io pensavo fosse derivato da un Turner, quello che ci avevi tu. No, no, assolutamente, questo qui è il circuito dell'SBE, il vecchio microfono da tavolo SBE, un vecchissimo microfono degli anni 70, 70 e 80, dai, la ricicla era un po'. Era esatto, no, anni 70, 2002, sì, era praticamente un microfono vecchio come può essere il tablet più tra tavolo, capito? Come può essere lo sciugle, come cosa è quello. Allora, il circuitino proprio di quello non è stato copiato, capito? E ecco che ho pensato di metterlo qui nel cosello, facendo appunto il modello del tablet più 3. No, io l'SBS c'era quello che c'è il tastino in alluminio, è nero il microfono con il tastino in alluminio per parlare. Esattamente, proprio quello, sì. No, no, ce l'ho io, nuovo nuovo, però siccome di lì l'hanno fatto modificato, hanno messo un jack, lo utilizzavano come microfono tipo quelli che usano nei supermercati, diretto per parlare, non hanno eliminato, hanno sdoppiato non so che cosa, l'hanno fatto, e lo utilizzava questo per parlare tipo come ti ho detto nei supermercati, l'hanno un po' modificato, prima di toccare, di fare modifiche, di evitare di fare danni avrei voluto lo schema elettrico, c'era anche uguale Natalino, anche lui non era riuscito a sistemarlo, non so che problema c'aveva lui. Io non ha problemi perché funziona il microfono, però siccome hanno fatto un ponticello, hanno eliminato un componente, l'hanno staccato, non so cosa cavolo, per quale motivo l'abbiano staccato, non ne ho proprio idea, forse per diminuire il livello, non lo so, o per qualunque altra cosa. Prima di toccare, ho detto, quando troverò lo schema me lo ritornerò, lo riporterò all'origine e basta. No, anche bello come microfono esteticamente. Ma tu scusami un attimo, ne scavi costruire anche un altro, ne avevi un altro, quando sono venuto da te tempo fa, un annetto buono, ne avevi un altro microfono in costruzione in legno, o sbaglio? Sì, quello lì me l'ho insegnato a Emanuele, l'ho più separato, che poi invece non ho mai finito e poi tra l'altro adesso non c'è più, ma è morto e dunque è finito così. Messo da parte i pizzi praticamente, i pezzi di legno sono messi da parte in bottega, ma niente di più, capito? No, anche perché lui poi nel frattempo ha detto, no, non ti preoccupare, non tanto, sai perché? Perché gli avevo dato io qualcosa simile a quello, no, ti spiego. Tu hai messo sempre il microfono, però un pochino più grande come dimensioni, c'era un ventilatore, c'era, no? Questa è una cosa che avevo fatto quel tempo stesso io, no? Nel bicchiere c'era un ventilatore piccolino, però molto efficiente era questo ventilatore. Allora, io un giorno ho dato a Emanuele, tutto il manetto di un ventilatore così, quando sei un mano che è caldo, tu metti una messa davanti alla terra, al tavolino, così e ti rinfreschi. Cosa ha fatto lui invece? Ha preso l'attento il motorino, il ventilatore, l'attento, ha comprato uno di quei microfoni che servono per cantare, no? dai cinesi o da chi fosse, non lo so, e l'ha applicato quello, ha fatto le modifiche e l'ha applicato quello, c'è che lui adesso si ritrovava il microfono in legno con una piattaforma, con una base un pochino più larga, con un bicchiere un pochino più grande, e con questo microfono ho fatto un'applicazione adatta per mettere il portamicrofono, capito? E gli ho messo quel microfono che ho comprato dai cinesi, ma funzionava molto bene. Sì, poi se riesce ad adattare a trovare gli abitanti. Ma perché è morto Emanuele? Emanuele è morto il 30 luglio, sì, il 30 luglio è stato fatto il funerale, il 30 luglio, sì. L'anno, sì, il 30 luglio, perché io mi ricordo il 2 agosto sono stato rimesso, sì, il 30 luglio. Io ero in ospedale e io sono stato rimesso il 2 agosto, sì, e lui è morto il 30 luglio, insomma non ho fatto in tempo nemmeno a vederlo, insomma. No, non l'ho conosciuto personalmente nel senso di persona, però in radio era una persona veramente in gamba, mi dispiace tanto. Purtroppo era grandetto di età, di cosa è morto? Di malattia o di perché era anziano? Aveva delle crisi respiratorie, aveva dunque è successo che aveva intanto 74 anni e ha avuto un Alzheimer, no? Ha cominciato a non andare male, allora a quel punto lì intanto la figlia subito gli ha sequestrato la macchina, chiaramente lui aveva Alzheimer, quindi in brevissimo tempo si è preso questa malattia. Aveva anche un problema di Parkinson, sì, che non era più stabile nel camminare, eccetera, no. Tanto vero, era caduto la prima volta e si aveva fratturato il polso. Lo mettono in gesso nel polso, dopo alcuni giorni di nuovo camminando cade e si rompe anche l'altro polso, tutti e due se li aveva rotti, avevano tutti e due i polsi rotti. Ancora passano alcuni giorni, una quindicina di giorni, cade di nuovo, tutta la bocca per terra e ha perso i denti davanti. E a quel punto lì allora la figlia l'ha fatto recuperare, l'ha fatto, e gli sono sopraggiunte delle crisi respiratorie, no? Gli sono sopraggiunte. In una prima volta, un momento, poi l'hanno restituito a casa di nuovo, dopo il ricovero, però è durato pochissimo a casa, e allora l'hanno dovuto ricoverare di nuovo, l'hanno dovuto ricoverare, ed ecco che a quel punto lì è morto Ciccia. No, mi dispiace, è una brava persona, molto educata, non l'ho mai visto parlare male di nessuno, sempre una persona socievole, diciamo, veramente una persona di quelle a modo. Sì, ovviamente, no, questo è un portacolo, non è educato, no, no, non c'erano dubbi. Sì, lui era spagnolo, lui era nato a Valladolid, era nato. Tu pensa adesso la vita quanto strana, pensa che si trova ancora la madre ha 94-95 anni, di buon immaginare, che adesso in questo momento è a casa della nipote, cioè a casa di Emanuele, dove c'è la figlia, perché nella stessa campagna abitava in una casa di Emanuele e nell'altra abita la figlia Laura, una ex CB anche lui, capito? E adesso ha la nonna lì, che purtroppo anche la nonna adesso è un po' fuori in testa, perché anche lì, dovuta all'età, quello 94-95 anni, dunque è tutto un discorso. Sino a poco tempo fa era lì a San Pietro, all'istituto dove ci sono i vecchi di San Pietro, che poi lì a San Pietro hanno chiuso, e allora hanno avvisato la famiglia, venite a prendervela perché qui dobbiamo chiudere. E avevano chiuso il pensionato, lì avevano chiuso, e allora se l'ha presa Laura, perché solo Laura se la poteva prendere qui, capito? Anche perché Emanuele era solo, come figlio, lui è figlio unico, e allora è andata a vivere lì da lui, ma essendoci la figlia, naturalmente era la figlia che accudiva quella donna, capito? E la accudisce ancora tuttora. Ciao, ma non era sposato lui, moglie non ne aveva, per te parlare. Emanuele la vedo da almeno una quindicina d'anni, la moglie di Emanuele era la sorella di Ipria, una vecchissima CB, e questa Ipria era, forse tu non la conosciuta, era la donna di Libero Melina, il pittore, capito? Il pittore cesarese. Sì, di nome non l'ho conosciuta. Ok, vabbè, non sapevo questa situazione di Emanuele, mi dispiace, è una brava persona. Ok, cambiamo argomento, se no ci rattristiamo, almeno oggi cerchiamo di essere un po' più allegri, dai. Ok, un'altra chiamata su 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, un attimo di bianco, lasciamo e vediamo un po', avanti su 10 chi vuole entrare. Vai. Ok, bello, sembra che non ci sia nessuno stasera. Stavo dicendo, mi sarebbe piaciuto anche avere qualche apparecchiatura così per ricordo di Emanuele, pagando naturalmente, non dovevo. Io, siccome ero già un po' di tempo su Emanuele, dopo che è uscito dall'ospedale, dopo che subito questa operazione che ho avuto, e allora sono salito su, mi sono avvicinato alla cancella in campagna, l'ho chiamato Emanuele, infatti io Emanuele chiaramente non poteva rispondere, non c'era più, ed è riuscita Laura, la figlia, è uscita Laura e ha detto, ma Emanuele dice, ma sai quando è morto? Dice 30 luglio, dice, 30 luglio, cazzo, non sapevo niente. E dunque mi ha detto pure che tutte le apparecchiature le ha date a un parente, se le ha portate in continente, se le ha portate, non so se poi le ha regalate o se le ha vendute, questo non lo so dire, so solo che tutto quello che aveva se l'ha portato via questo parente in continente. Non so chi sia, se Riccardo il figlio, perché Emanuele aveva tre figli, uno è Riccardo che lavorava e lavora sempre a Bologna, fa un montatore di film, queste cose qua, no? dice la nuova è l'altra, è la Consuelo, è sposata e dunque vive in un'altra casa, non vive lì. Di conseguenza questa lavola lì è sola, adesso dormo con la casa lì, cercando e fuori, e Consuelo appunto è col marito, chiaramente, meglio così. Va bene, lo prendi. Vedete se è andata in mani buone, non venga buttato nella mondetta, la prima volta succede così, che trovi in mano gente che non ne capisce niente, prende e ci butta tutto. Ma Emanuele, se non sbaglio, abitava vicino a Natalino, dove abitava in origine Natalino, no? Sì, il mio confinante, prima abitava Emanuele, poi l'altro persona abitava Natalino, sì, sempre lì, nel un numero confinante aveva, dopo un milione, un numero che... Sì, aveva di bella apparecchiatura, aveva il TS2000, aveva il Galois Saturno Eco, aveva il FT7D, aveva anche apparecchi piccoli, anche un multi, aveva anche 400 canali, poi aveva la cosa come si chiama, gli alimentatori, aveva la di cose, sì, era ben attrezzato, diciamo, dai. Perciò sì, Natalino adesso abita a San Vinicio, non so se lo sai. Sì, ho saputo, più o meno a me anche la zona, no, noi ci siamo visti di recente. Ma dai, c'è il TS2000 addirittura, cosa, Emanuele? Sì, avevo il TS2000, sì, certo. Poi l'avevo dato io lo schema, avevo fatto avere io lo schema elettrico per la prima, perché il TS2000 quando lo compri non è aperto per la 27, no, cioè era solamente in recensione da un canale, diciamo, da metà banda, CB su, era aperto, poi non permetteva niente, allora ho telefonato io, ma in elettronica, mi hanno subito mandato lo schema elettrico, io ero da lui era il tecnico, e ce l'ha fatto lui stesso, capito? Infatti lui c'era un radiotecnico, anche bravo, l'ha fatto sentito. Sì, era discreto, con il radiotecnico, naturalmente, con i televisori prima, adesso non lo so, magari sarebbe dovuto tornare, però diciamo che ha avuto tanti anni in laboratorio e non è vissuto, e diciamo, è portato avanti anche la famiglia, di conseguenza se l'ha fatto vuol dire che era in grado di farlo. Era un tecnico che prima lavorava tantissimi anni fa, lavorava prima che si mettesse in più, lavorava la porcella, capito? Ho capito, il laboratorio dove ce l'aveva? Il laboratorio ce l'aveva, inizialmente ce l'aveva in via Pietronica, ce l'aveva, c'è il bar di all'angolo via Pietronica, di fronte a Botteva, attaccato, allora il palazzo del bar non c'era, poi hanno demolito tutto quell'angolo, hanno demolito e si è trasferito via i grandi soci, diciamo a 100 metri dove sono io, più avanti, insomma, ecco. Sì, sì. Non ho capito esattamente, cioè non l'ho mai visto, però la zona l'ho capita. Ok, no. Vabbè, TS2000 l'ha parlato, costa anche un po' di soldini, non è un giocattolino, ma lui non era radioamatore. No, non era radioamatore, non ha voluto mai fare una domanda per avere un patentino, perché non fa la domanda? Se te lo danno, la prima cosa me lo frega, dice, e gli sa bene, quando voglio fare quattro chiacchiere, dice, scendo un baracchino e lo faccio lì, in quel canale lì, poi, sì, alle volte parlavamo in LPD, no, lui usava appunto quello, usava, io mettevo un 433, ma 433 del 75, abbiamo fatto diverse collezioni lì, io con Gumino e lui da quell'apparecchio lì, appunto, al TS, capito, al TS2000. No. Ah, poi c'era una voce inconfondibile, io quando lo sentivo sembrava uno di quei, forse perché mi stai dicendo non era italiano d'origine, quando il prete dice la messa, il vescovo, sembrava la voce del coso, della messa, c'era una bella voce proprio particolare. Sì, era una voce chiarissima, era bella, sì, era pensato veramente. E lui praticamente usciva quasi sempre con il Galaxy usciva, e dunque con la tunica che ha il Galaxy, sai, una puntina proprio leggerissima, ma veramente leggera lì, è come tela, e usciva sempre, quasi sempre con quello, usciva per il TS, lo sfruttava più che altro, l'ha soltanto sul PCAS per fare ascolto, niente di più, anche perché quello lì per entrare nei 27 non te ne fa niente, secondo me, di un'apparecchiatura come il TS2000, capito? Io assolutamente non ho una parecchia sprecata, è come se ti prendi una Ferrari e vuoi andare a Sassari Vecchio, non è venuta. Infatti, avevo pagato 2.470 euro, avevo pagato, con tanti, anzi ha fatto, nel mutuo di Tamerù, mi chiese 2.000 euro, non lo devo fare, infatti io non mi piace così, cosa me ne frega, gli stanzi su di io non me ne frega niente, perché magari aveva un bel gruzzoletto come sono fatte, non era così, no? E però se aveva anche un'altra casa, che era della madre, che poi l'aveva ereditata lui, in via... che via Luessoni, mi sembra che sia questa, insomma abbiamo già detto, sono andato su in alto, no? Prima del ponte ripetitore del telefono, sulla sinistra salendo lì, lui aveva un appartamento lì che era della madre, che l'aveva diventato lui naturalmente, perché la madre era nell'istituto, allora, insomma, stava bene, non è, aveva anche la pensione, chiaramente. E le cose, tanto su dice io, dice che tanto lavoro non me la faccio, se poi i miei figli dice se li trovano 2.000 euro in meno non me la frega niente, dice, però mi vuole tutta la soddisfazione, ha detto che non lo vedi tu, e te lo dico io, infatti l'ho ordinato, ho levato in bottega, ho levato, lui ci ha trovato, ha detto, vuoi un tesso di lui, dice così, sì, ha detto, guarda, vogliamo andare prima la compro, tu quanto volete dare al conto? 1.500.000 al conto, e il resto alla consegna tramite lo spedizionale, no? E così è stato, insomma tutto è venuto 2.470 euro, compreso anche il trasporto e tutto. E non so, un apparato che costa, è un quadribanda quello lì, era il topo della Kenwood, nel periodo che l'hanno fatto era il topo di gamma, dai. Sì, indubbiamente un bel apparecchio indubbiamente. Sì, in effetti per la 27 era spiegato, però lui si vedeva anche nelle altre bande e ascoltava, capito, e allora era soddisfatto per quello. E ha fatto un belletto, ha tolto l'uscizio così almeno qualcosina l'ha fatto, no? Sì, no. Bella, beh, c'era da Claudio, io l'avevo visto da Claudio, l'ha tenuto un periodo. Claudio era veramente un bel apparato, anche se per dire ci sono anche altre cose adesso, della ICOM, della IAESU, però della Kenwood era il top, il massimo che potevi trovare in quel periodo lì, un apparato ci avrà, io penso, 7-8 anni almeno, quello lì come età, però era bello, bellissimo apparato, digitale, in 27 veniva a saperlo usare per farlo uscire, perché se no c'era cane, cioè è una modulazione particolare, però io ho sentito qualcuno che ce l'ha e è riuscito a farlo andare bene, non a livello di 440 e 140, però riusciva a farlo tirare fuori. Sì, no, nel 1940 il 27 non andava, non era maniera più assoluta, però diciamo che era un ultimo apparecchio, è un apparecchio per le bande radioamatoriali che sicuramente sfruttato avrebbe dato un sacco di soddisfazioni, ma lui quello non lo poteva fare in quanto non era radioamatore e allora si limitava all'ascolto. Ripeto, lui ha modulato con quell'apparecchio più in 4.63, 0.75 insieme a me, io con Gomino, che c'ero sempre, l'LPD, l'ascoltato più lì che il 27, il 27 lui usava quasi sempre il Galaxy, qualche volta, ma qualche volta veramente, usava anche l'FT7B, quindi arrivava sino agli 80 litri, arrivava l'FT7B, e anche quello l'aveva acquistato sempre dalla stessa persona, compreso un Galaxy, erano due apparecchi che avevano acquistato dalla stessa persona, che non te lo faccio perché non è importante, non fa niente fare il nome. Dunque, diciamo, era attrezzato, la verità, era attrezzato, aveva i switching anche all'orientatore come quello che io ero, 25 ampere, poi aveva altri, anche di quelli al trasformatore, insomma era ben attrezzato, non si è fatto mancare niente, come antenna invece aveva, e c'era ancora piazzata con l'antenna, l'antenna a 24 radiali, e lui era soddisfatto, lui cioè, se non era una tuba, cioè non era una mantova, ma io sinceramente con questa antenna sono soddisfatto, meglio motivi, prima di tutto perché meccanicamente per conto mio è più robusta addirittura, almeno è fatta in un'altra maniera, nel senso che gli elementi della mantova sono in mezzo dal più fino verso il più grosso all'interno, no? Così si mettono così, mentre invece questo era il contrario, il bicchiere era prevalgo era quello di un singolo superiore, in modo che l'acqua non penetrasse all'interno, capito? che vuole entrare. Buonasera, sono Tomiglio nel campo 2 che vi ci fa salutare, ciao Giulio, ciao Roberto. Dopo tanto ci riaffacciamo, avanti Roberto, buona buonasera, ti rimetti il cambio, vai. Ciao, buonasera Gianni, anche a te tanto tempo non ci sei, vabbè, sono entrato un po' con niente io ultimamente, dai, non ho avuto tempo, stavo facendo altre cose, voi ben sentito, già lo sai, non c'è problema, come con Giulio, siete persone speciali ed è sempre un piacere parlarvi. Avanti Giulio per Capri. Ciao Gianni, sono tu, non mi sentito, non prendo un po' il tempo. Bene. Ma poc'anzi tu hai fatto break su questo canale, perché più o meno il segnale da quello della radio alle circa era così stesso. Io che lo dirò, stavo trovando, ero fermo per un parecchio tempo, in quanto un fulmine mi aveva fatto fuori l'apparecchio, è stato fuori delle pesserie, dei diodi, controllata l'antenna, tutte queste belle cose. L'abbiamo rimesso a posto e poi non stavo più entrando a causa altre cose. E una serie di quei temporali è stata, comunque l'ho messo per il piacere, l'ho messo a posto delle cappatine, l'alimentatore, tipo che. Ti ascolti bene, Robert, non lo so perché è la prima volta che entro da quando ho sistemato la roba, no, no, pensavo che ce ne fosse di più, però diciamo. L'ho messo a punto perché è lungo apparecchio, poi c'è il macchina a tavola, capito, il classico mira, la stazione pare, ne ho altri, però questo è quello che si usava spesso nell'angolino, non lo so, Robert. Se arrivo bene mi dai conferma, penso di sì. Giulia, 9.15 il tuo segnale, leggermente, ma proprio leggermente, un po' compressa la modulazione, comunque è chiara, niente da eccepire. Ti stai aiutando, penso, con qualcosina, quanto ne metteranno di cavalli vapore? Non lo so, sempre come è piazzata, lo penso, sempre quella di giro piccolo piccolo, un coso di quelli di paradobri alimentato, sempre da quell'alimentatore che mi ha saltato, pensavo che c'era più danno, poi abbiamo lasciato appena, adesso piano piano, mi è stato per tutto. Ok, come state, che coso, state bene, la 27 sta andando, ci sono le ruote, come le va? Adesso riprenderei a Giulio, io sono già un po' che non sto entrando, avanti Giulio che sei più informato di me sicuramente. Ok, già, guarda mi dica. Diciamo che a Fase Alterne la frequenza, nei giorni ci sono più persone, altre meno, durante la notte adesso non c'è più quel traffico di prima, nei giorni scorsi, nei giorni passati, quando si pensava di portare in porto la soluzione, come si chiama? Ma vabbè, adesso mi sfugge. Quando mi stavo organizzando Antonio Globe eccetera eccetera all'associazione dall'aggettivo avevo dimenticato il nome vocabolario Robè, ci mancava una parola, l'aggettivo associazione. come sta andando Gianni? È attento a fare il tema, niente di più, la notte non è più popolato come prima, ad esempio, tanto per me per essere un pochino più chiari, io ad esempio in notte c'erano solo tre persone sino a una certa ora, poi sono diventati due, sino a notte fonda, anche oltre la mezzanotte, ma niente di più, alla differenza di prima che magari se ne sentivano 5-6 persone, ma adesso niente, io vabbè non vengo mai la notte così per questione di tranquillità familiare, nel senso che qui la televisione mia moglie ce l'ha anche in camera e dunque la sigla la notte e io avendo la stazione qui in camera mi metto le cuffie, ascolto e basta, se no disturberei nei programmi che guarda mia moglie, capito, tutto lì. No, niente di nuovo comunque, non è andato avanti niente, almeno per il momento, come prendi? Io però diciamo ce l'ho sempre sul cuore perché come entro diciamo andare a letto ma la facciamo la parete, ho sistemato l'apparecchio, ma con al televisore diciamo che erano delle serate noiose, stavo passando anche per gli altri impatti, ho visto pagarmi le tasse a fine novembre, rifierrata, abbiamo risparmiato, proprio stretto qualcosa per festeggiare il Natale che era della tutto in famiglia, hai capito, però la passione per la radio è tantissima, il bene che vi voglio è tantissimo, però molte volte anche io sugli alti e bassi e quindi sono contento, però quando voi si creano delle bellissime ruote che parlate del più e del meno, io sono per la 27 per i miei amici e per chi più ne ha più ne mette, riprenderò questo. due minuti vi lascio, che mi hanno chiamato dentro le bambine, vi lascio, li riprendo subito. Ok, allora, d'accordo, va bene. Sì, Gianni, capito, è così, ma sai cos'è? Cioè, riguardo quella frequenza, sempre continuando a dare notizie di come sta andando la frequenza, e devo dire che manca l'elemento trainante, capito? Quando manca l'elemento trainante, diciamo che l'affollamento non c'è, ecco, l'affollamento tra virgolette, perché affollamento di vero e proprio non si può mai parlare, per il semplice fatto che magari possono essere 4-5 persone, al massimo 6, poi magari gli altri li sentono in domani, li senti fra una settimana, allora al limite. Ma voglio dire, il più assiduo qui a Sassari, diciamo che Gianni più giù, guarda, non ci manca mai, tutte minuti mancabilmente, è lui che fa da traino, però non è l'elemento diciamo principe per trainare la frequenza, evidentemente. Sì, allora, perché io adesso lui lo sa, perché gli ho detto anche di persona, lo sa benissimo chi è l'elemento, io lo metto, sei tu un elemento trainante, se non è in lui non è una frequenza da fondamento, capito? Lui lo sa, adesso io non lo dico nemmeno, ma lui se li sta ascoltando anche, probabilmente, lo sa benissimo, perché gli ho detto anche da poco. Va bene così, ci accontentiamo lo stesso comunque Gianni, non è un problema. Ok, sì, ho capito che sei ricevuto, senz'altro persona molto affabile, molto conoscitiva della frequenza, molto preparata, e però anche lui ha il suo lavoro, ha le sue, capito, dove uno rientra, capito, dopo una giornata, dopo forse non ne ha voglia, ma di rientrare, come io, diciamo, grazie anche alla crisi, si fa sentire, non è che adesso sto male come... Qualche volta, ma uno ascolta e basta, non, non, e si fa gli affari suoi. Però voglio dire, non è più come tanti anni fa, che c'era proprio un'impossibilità quasi quasi di parlare, perché c'era troppo movimento di bambini, di persone che facevano veramente maleducati. Oggi no, oggi diciamo siamo a grosso modo 15 persone, 20 persone al massimo, non di più, ecco, e oggi siamo venuti a quel come CB. E devo dire che bene o male ci conosciamo tutti e andiamo anche d'accordo, o quasi tutti ci conosciamo. Andiamo a persone che è chiaro che bisogna anche che la disponibilità mia debba coincidere con quella tua e così via, no? Ma se non c'è questa possibilità di coincidere i vari momenti, allora è chiaro che la frequenza subisce queste alternanze così di affollamento e di conseguenza sembra che sia peggiorire, ma in realtà non è che sta morendo, la verità non assolutamente, perché sono convinto che prima di morire questa frequenza muore il cellulare. Quindi detto così, non per battuta, ma ne sono più che convinto, perché la passione ce l'ha, o meglio ce l'abbiamo tutti quelli che siamo rimasti, se ci siamo più passione, soprattutto i più anziani come me, te, Claudio e tanti altri che ci sono proprio, ce l'abbiamo nel sangue, insomma, quella passione lì, e alle volte anche se non si nulla, magari il baracchino rimane acceso in ascolto, eccetera eccetera. Ripeto, come dicevo un po' calci, io più di una volta sono impossibilitato a parlare, durante la settimana e per me è impossibile, nel senso che lavoro e allora non è possibile. La notte tu gli hai spiegato come succede, non posso parlare per evitare disturbi e interferenze qui alla televisione di casa, non nella televisione direttamente, ma nel fatto che mia moglie non possa seguire come si deve programmi, allora no. Mi astengo da parlare, ascolto e basta, metto le cuffie e ascolto tutto lì, capito? Comunque ti diamo avanti lo stesso, non è un problema, ho già. Sì, è quello lì giù, perché diciamo che io molte volte quando ho iniziato con tutta la passione certe sere dovevo proprio chiudere per non fare l'interferenza alla televisione, perché c'erano i cugini di TVI, i televisori erano vecchi, capito, andava a scaricare proprio la televisione del vicino, era apparato, tutte quante queste cose, perché gli albumi che andavano all'epoca dove volevano, invece adesso con questa roba satellitare difficilmente si disturba il televisore, a meno che proprio uno non fa delle picchi in Africa. Lo sai quante cose ho dovuto rinunciare a queste bellissime proprio per la storia del TVI, e purtroppo lo facevo volentieri, giusto per non entrare in conflitto con il vicino e tutte queste belle cose. Rimane buon ascolto ed era bello lo stesso, avvertivo, lo posso modulare perché sto facendo di qua, e però diciamo mi ha accontentato così. Ok, vediamo se è rientrato Roberto, ci sei? Roberto non è ancora rientrato. Sì, beh, in effetti è così, oggi da quel lato lì siamo più tranquilli perché non ci sono, diciamo, queste lamentele che prima c'erano, anche se sinceramente io non ho mai disturbato nessuno, anche se prima era quella che era la frequenza televisiva, capito? Non era un problema, anche perché non ho mai usato apparecchiature di rinforzo, non ho usato, se ho usato sempre il solito baracchino normalissimo, senza, come luce, con del resto, anche se devo dire che sono riuscito a mettere a posto il 747, che un anno fa mi aveva bruciato un fulmine, mi aveva bruciato, ho cambiato i finali, ho cambiato e funziona, però se lo metto è cessato perché il baracchino mi dà più potenza di ingresso di quella che devo ricevere il 747, capito? E allora non lo uso, lo metto da parte, non me ne frega niente, no? Niente di... non è successo niente, insomma, non è necessario, visto e considerato che riesco a farmi ascoltare un po' dappertutto, anche fuori quando c'è preparazione, visto che basta una chiamata e mi rispondono subito, e allora non, non ha nemmeno senso attaccare un rinforzo senza essercene bisogno. Tanto che mi senta un Santiago 8 o che mi senta un Santiago 4, per me non va bene lo stesso, interessante che mi sento, poi per il resto non ha importanza. Non ho ambizioni di potenza di Santiago, io non me la frega niente, più di tanto. Tanto è vero l'antenna che ho messa male, ma male veramente, ci mancano la metà dei radiali, ma quando sarà il momento, per adesso sta funzionando, quando non funzionerà più, allora la cambierò e basta, no? E sistemeremo anche quello. Va bene così comunque, le prendi già. Ok, non lo so, questa è stata controllata, anzi pensavo che abbia avuto un danno, ma non era così. Ok, tutto a posto, quindi l'attuatore vediamo come funziona e qualche da oggi dopo tanto tempo, perché anche lo abbiamo aperto, è molto tempo per salutare e così. Ok, mi devo anche assentare perché tra non molto a liberare mia cognata e capito. E sto aiutando la 50 a preparare qualcosa in quanto mio figlio uno è andato a suonare per gli anziani, ogni anno le fa questo omaggio a tutti gli anziani a casa di riposo, poi ce l'hanno a cena qui ed altro mio figlio in giro con la moto, quindi devo dare una mano alla 50, devo dare. Mi ha fatto piacere di averti sentito, ti saluto, ti auguro un buon Natale, se non ci sentiamo per domani non accenderò. E saluto Roberto, saluto tutti gli amici che sono sul canale 10 in ascolto, un Natale di cuore, già di capirlo adesso. Tanto RPL è stato bello tutti i passaggi che ho fatto, riprendi Giulio. E anche già, e anch'io ti faccio i miei auguri di buon Natale, infatti stasera avevo addirittura pronto il messaggino degli auguri per inviarlo, poi invece forse è anche stato meglio perché ci siamo sentiti al baracchino, quasi dal vivo, consideriamolo così, dai, e quindi se abbiamo potuto fare direttamente di persona, no, se no, prego, come tutti gli anni, faccio sempre delle cose lì con gli amici, anche con Roberto lo stesso, adesso questa volta non è necessario che mi invii né a te né a Roberto, mi sei considerato che ce ne facciamo di persona, gli auguri. Grazie comunque ai Gianni per il cuore, se lo faccio sentire quanto prima, come è possibile naturalmente, senza forzature, questo è ovvio, ci mancherebbe altro, però mi fa piacere sempre ascoltarti. Diciamo che non ho mai tutti gli amici della frequenza, non ci sono dubbi, nessuno ho scartato, voglio bene a tutti e vado a quello con tutti, di conseguenza mi fa piacere quando sento gli amici. Saluto ancora Gianni, saluto a te famiglia, allora buon Natale, siedemi tanta in famiglia, ciao, ci sentiamo, ciao. Scusa tu, un attimo, prego. Sì, avanti. No, scusate, mi stavo rientrando, ho sentito l'ultimo discorso, anche io infatti volevo salutarvi tutti e due e anche gli eventuali amici che stanno ascoltando, vi auguro tanta serenità, tanti auguri, tutte e tante cose belle a tutti e due, alla vostra famiglia e ai vostri cari, sempre persone squisite tutti e due, ho sempre un piacere parlarvi e dialogare con voi. Ok, vi saluto di nuovo, tanti auguri, io devo chiudere perché adesso devo fare cosa. Di nuovo ciao Giulio e ciao Gianni, buon tutto, cuore ti da parte mia, aspetto il finalino e poi... Grazie Roberto, che stiamo chiudendo, mi approfitto, ti faccio, guarda, i più calorosi auguri di cuore a te, al tuo cuore, a tutti, sia anche al tuo grignellone che ha avuto una e a tutti, perché sia un buon e poi cambiamo proprio, adesso siamo in vacanza, faccio, se entrate qualche sera che siete in frequenza, diciamo che mi affaccerò per salutarvi e per cambiare quattro chiacchiere. Ok, di nuovo tantissimi auguri e vi lascio a Giulio Vollaro. Ok, ciao ancora Gianni, salutoni. Ciao di nuovo auguri. Ciao Roberto, salutoni anche a te. Ti volevo fare solo un piccolo interrogativo, ma una cosa velocissima. Il numero di Salvatore è sempre quello con il telefonino, non l'ho cambiato perché ho intenzione di farmi gli auguri tramite telefono o Robè. Allora io non so quale c'è, lui aveva due di numeri, c'era quello aziendale e l'altro. Dovrebbe essere quello attivo il 347. 7, se c'è quello. Io ci sono sentiti quanto tempo fa, una quindicina di giorni fa, e mi ha risposto con quel numero lì, mi ha telefonato con quel numero Salvatore. Poi non so se ultimamente dopo questi 15 giorni abbia avuto dei cambiamenti, questo non te lo so dire. Comunque io con 347 l'ultima volta l'ho ascoltato. Ok, vabbè, ti ringrazio, ascolta, non lo so adesso perché dovevi controllare il telefonino se è quello. Allora io mi fai la cortesia, se per caso hanno contattato tu, di fai gli auguri da parte mia. Comunque io adesso cercherò il numero del telefonico, cioè se c'è, perché sono registrato, suppongo che sia quello di modo, è quello che andrò direttamente in persona. Ok, grazie ancora, vabbè, saluto anche a te, tanta serenità in famiglia, a te. E tu, a risentirci. Ciao, Robe, ciao, auguri. E ok, chiudo adesso definitivamente. Ciao, ciao di nuovo Gianni e Giulio. Ciao, ciao a tutti. E ciao, ciao. Ecco. Sì, avanti, chi è? Ciao, bello Giulio, buonasera, Massimiliano Bulldozer. Ciao Massimiliano, saluto, ho risentito. Bello, tutto sparato, ultimo, avanti. Dai, buonasera, mi stavo ascoltando, vi volevo fare gli auguroni per il buon Natale e tutto, Ok, mi fa piacere Massimiliano, io ricambio il cuore, guarda, non ci sono problemi, non è neanche poc'anzi, voglio bene tutti gli amici della frequenza, di conseguenza mi fa piacere sentirlo, soprattutto in questi giorni così, per poterci fare gli auguri eccetera eccetera, e augurare loro tanta serenità e tanta benevolenza per tutto quello che desiderano, figurati. Ti ringrazio comunque, Massimiliano, non so se stai chiudendo o cosa stai facendo, comunque ti dico che è un leggerissimo fischietto nel microfono. Sicuramente un fischietto perché sono sicuramente troppo vicino alla cassa esterna, vedi un po', passata appena un'amplificazione, Giulio, vedi un po'. Adesso va benissimo così, adesso va benissimo. Dai, no, già avevo la verità, il macchino acceso, vi stavo ascoltando, non ho avuto un secondo di tempo per entrare a salutarvi, là. Già lo sai, i preparativi come sono, che c'è gente a cena, è tutto un maramano, prendi qui, prendi là, porta qua, porta là, e niente, vi stavo solo ascoltando, allora, infatti ho detto, adesso entro, li saluto, che mi fa piacere salutarli. Ok, guarda, ricambiato al 100%, il piacere è ricambiato al 100%, ci mancherebbe altro. Va bene, la soglia, e tu lo sai, io sono sabato e domenica, mi dedico un po' alla trasmissione, diciamo, perché all'ascolto magari faccio un po' più di ascolto di quanto la faccio in trasmissione, per un semplice motivo, forse se hai sentito, che la notte appunto per non disturbare alcuna via qua, non mudo, non lo provo, ascolto abbastanza, ascolto, metto le cuffie e via. Beh, ho notato in questo tuo periodo un leggero calo di persone, di frequenza, però purtroppo lui ha i suoi tempi, ha i suoi momenti e soprattutto ha le sue voglie di accendere la radio per poter appunto conferire l'uno con l'altro. A questo punto ci accontentiamo, ci mancherebbe altro. Spero che la frequenza non finisca mai, quello che mi dica, Massimilia, io me lo avevo tanto, il fatto che io ci sono quasi 40 anni, anzi 40 anni adesso al 2012, dunque dimostrano l'attaccamento che ho della passione per la radio, tutto lì, vai Massimilia. Sì, positivo, lo so. La passione c'è sempre, capito? A volte quando rientri dal lavoro che non c'è voglia, magari anch'io oggi faccio tanto ascolto, appena arrivo a casa la prima cosa che faccio mi accendo la radio. Se c'è qualcuno rimango un po' in ascolto e a volte non c'ho voglia di entrare perché la stanchezza è tutto. Prima viene il lavoro, prima il dovere e poi il piacere. Ok, dai, io mi sono entrato giusto, lo dicevo, per salutarvi, vi auguro un buon Natale a te e tutti gli ascoltoni, non so chi sta ascoltando, comunque lo auguro a tutti gli ascoltoni, dai. Ti lascio Giulio che ancora qua c'è tanta cosa da fare, dai. Ok, gli auguroni tanto, sicuramente qualcosina accenderò domani per vedere un po' cosa succede, se c'è qualcuno in radio per fare gli auguri proprio di persona. E niente, dai, ok, di nuovo buona serata e buona continuazione, ci sentiamo, dai, io adesso passo in QRT e non riprendo più. Ok, Massimiliano, e io ti ringrazio per essere stato a salutare e soprattutto per avermi fatto gli auguri, che io ti ricambio il vero cuore a te, famiglia, a bambini, eccetera, insomma, tutti indistintamente, tutti i parenti, tutti gli amici tuoi, anche a tutti, insomma. Ripeto, io sono una persona molto sensibile, una persona buona animo e di conseguenza non ho mai avuto niente con nessuno e spero non averne mai con nessuno, anche perché per beneficiare bisogna che ci sia anche la mia partecipazione, ma la mia partecipazione nel beneficio, nelle contribuzioni non ci sarà mai, perché il mio carattere è quello. Di conseguenza mi fa piacere veramente quando io sento amici come te, come quello che c'era poc'anzi, Roberto, Gianni, lo stesso Claudio, Alessandro, Gianni Lopio Russo, ma tutti, l'altro giorno ho sentito Antonio Lombo, l'ho sentito, ho avuto anche parlare con Pierpaolo, con Giuseppe Tornado, ho parlato e mi fa piacere ascoltare tutti sopra le tue parole. Spero che continui così, tutto lì, Massimo Ia. Grazie ancora, saluto gli auguri a te, vai, ci sentiamo, ciao ciao, chiudo anch'io. Non farò gli auguri anch'io. Eh beh certo. Ciao Giulio, Falchetto, tanti auguri. Ciao Falchetto, infatti stavo pensando anche a te, tu non ci crederai, ma un attimo fa io stavo pensando anche a te, ma non ho sentito più Falchetto, come mai questo sentimento qualche? Poca voglia Giulio, poca voglia, tanti problemi e poca voglia, dai. Sì, quella portante non so se era ancora la tua o se era un'altra. Sì, beh, è chiaro, ma ho rinunciato anche quella poc'anzi, le nostre tempi, le nostre voglie, è chiaro, però quando io le sento le persone mi fa veramente piacere. Vediamo se questa era importante. Nuova oppure se è sempre la tua, avanti. No Giulio, una portata non lo so scendere radio. No, perché se mi stai ascoltando, io questa persona non sto scendendo in radio. Sì Giulio, ti stavo confermando questo, non stavo scendendo in radio, l'amico non stavo scendendo in radio, Non sto uscendo in radio, perché? Ah, adesso sì, ciao Giuseppe, allora anche a te, in compagnia di Giulio Dollaro, comunque faccio gli auguri a tutta la ruota, anche agli ascoltori, avanti Giuseppe per Giulio. Eia, ciao Giulio, buonasera, comunque io sono entrato 10 minuti per fare gli auguri a tutti quanti gli amici, i componenti, e noti il CB del canale 10, il buon Natale e un felice anno nuovo, è giusto per se non ci vediamo in persona, a meno in radio ci vediamo gli auguri. Certo, ciao Luigi, salutoni, grazie per essere entrato a salutare, io anch'io ricambio al 100% gli auguri, ci mancherebbe altro, però qualche problema voglio con la radio, ormai questa evanescenza di segnale che c'hai, come mai? Perché è basso, un bel basso è Giulio. Non è basso, è abbastanza alto, alle volte 9,5 ho registrato, però adesso in questo ultimo passaggio 9 era fisso, non so cosa è successo. Non lo so perché, no guarda, non ti so dire niente perché bisogna controllare la questione, non lo so, dopo Natale le facciamo un controllo generale questo apparato e vediamo un po' cosa c'ha di male. Ok, io no, sta andando bene Giuseppe, ma solo che poc'anzi ho registrato un 9,5 e adesso era quasi 9 per esattezza, 8,5, 8,7, diciamo così, però c'è stato un attimo che il tuo segnale si è aumentato di colpo a 9,5 e appunto hai subito pensato, probabilmente a qualche PM che non fa un contatto perfetto perché di solito tu mi arrivi 9,5 qua. Ok, adesso non ho la radio. Sì, l'ho sentito. Adesso non ho la radio, Luci. Come? Non c'era la radio. Non c'era la radio. So sì, ma poc'anzi no, non c'è la radio, un momento prima, cioè tutto il passaggio che hai fatto, non c'è la radio, capito? Capo, allora deve essere difettosa la batteria deve essere difettosa. Adesso cerchiamo di cambiargliela e vediamo un po' se la batteria. Ok, vedo mi fa che. Okay. Positivo, sì, ci sono stati vari due passaggi buoni che non si è riuscito a girare. Va bene, controllati la batteria e niente, giù è così. E lo stavo entrando anche per altri motivi, dai. Tutto qua, deve essere tutto a posto e diciamo niente arrosto. Ho capito quanto. E speriamo che non siano motivi seri, così almeno. No, non ci voglio dire, perché l'ultima volta che ho sentito chiamarti era con l'amico di Bologna che ti chiamava sempre, lui non la può dire con me, chiama Antonio, il Falchetto chiama. Infatti quando gli si diceva no, non c'è Falchetto, forse lui lo, o non ascoltava bene o non capiva, che ne so io. E poi ho pensato, Falchetto evidentemente è assente o stanchezza, oppure fatti i suoi personali, ed è per quello che non sta entrando in questo tuo periodo, tutto lì. Che ha pagato, è il giornale di Bologna, e adesso un parecchio non lo sento, è no, il giornale di Bologna, cioè il napoletano però trasferitosi di a Bologna, sono stato a una sala e vivere a Bologna. Non so, non l'ho contattato, io sinceramente lo sento bene, anche lui mi sente in questa posizione. Auguri qua. Un problema. No, adesso un po' di tempo che non senza sentirlo. Se sarà andato io a Napoli magari è apparente, perché ultimamente mi aveva detto che era stato a Napoli, era stato, e evidentemente lì ci sono i parenti, e allora sarà andato ancora una volta lì da quelle parti. Vediamo un po' di vicino se ha sistemato la batteria. Vai Luigi. Ehi, guarda vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sì, c'è uscito, ma non so se l'ultima parola ti è mancato, se hai messo tu di parlare, non lo so, qua, non lo so cosa gli ha preso a questa capo degli apparato, non lo so. Comunque, guarda, se sta uscendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, sta uscendo bene, sì, io ti sento benissimo, no, ma siccome era mancata l'ultima parola, forse tu hai mollato un anticipo prima di dire la tua ultima parola, ho capito, ecco perché ti ho voluto appunto apostrofare questo fatto, ho capito? Di nuovo, si è mancato di nuovo in radio e si è sceso anche di un tutto, se di Santiago si è sceso, non lo so, qualche cosettina c'è in quella, controllo del PM o controllo del PM, quello è importante, perché finché c'è stato il microfono va bene, ma se il difetto del PM è il produciale finale, vai intanto un Falchetto. È positivo, c'è stato un auguri, avanti mi passo Claudio Sbaldiano, avanti. Sì, buonasera a tutti, ora solo per farvi gli auguri perché sto spegnendo tutto e sto uscendo. Auguri a tutti, eccetera eccetera, ciao Giulio, ciao Antonio, mi avete ascoltato dopo tanto, mi stavo seguendo già da poc'anzi che mi stavo preparando. E ciao a Giuseppe, eventuali altri amici che sono in ascolto. Giuseppe, hai grossi problemi piacere, tanti auguri anche a te come vera familiare, e buon Natale anche a te, va. E ti rilascio a Giulio, vai Giulio per il saluto. Ok, ciao, ciao, saluto. Grazie per gli auguri che mi ricambio di cuore, stretto in mano, salutoni a te e famiglia, uni in famiglia indistintamente. Ci sentiamo nei flussi, ne vai vicino. Ehi, guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso va bene, fai gli auguri a Claudio che sta andando via, se lo chiudo io non ti può più sentire. Ehi, tanti auguri Claudio, un buon Natale e un felice anno nuovo, dai. Se nel caso non ci vediamo, te le faccio adesso gli auguri, spero di vederti verticale, almeno ci beviamo una cosa, tranquilli, salutami tutto quanto il cuore ha, a tua moglie, tua figlia e tutti i della famiglia, ok? Eia, grazie anche a te, beh certo, conto mio. D'accordo, ciao Giuseppe, anche a te un augurio di buon Natale, eccetera, eccetera. L'anno nuovo ancora non ci arriverà nessuno perché è troppo distante. Ciao a tutti, grazie, un intervento velocissimo, ci sentiremo alle prossime, dai. Poco traffico, poca voglia di fare, eccetera, eccetera. Metteremo un po' a posto le cose sicuramente all'anno nuovo, per il momento va bene così. Ciao a tutti, di nuovo per te e Giulio, fai girare QRT SK per me, ciao ciao. Ok, ciao qua, sono Tony, a risentirci presto. Avanti un amico che si è affacciato per un attimo. Ehi, sono qua Giulio, sono qua. Ci deve essere qualcosa, ti ho detto, o le batterie a scarica oppure qualcosa che non fa bene il contatto dove attacco il microfono, ci deve essere qualcosa che non va bene. No, c'era un amico fortissimo, non voglio sbagliarmi, mi è sembrato, ma non ne sono sicuro, mi è sembrato franco. Va bene, evidentemente se vuole entrare io siamo qua. Avanti Franchetto. Positivo, mi è sembrato più che franco, mi è sembrato Bulldozer, comunque va bene così, salutoni e auguroni anche a Bulldozer. Sì, probabilmente hai ragione, sì, la radio era fortissima, è il segnale fortissimo lo stesso, sì, però un Bulldozer c'era poc'anzi qua e avevo salutato perché aveva da fare a casa, tu lo sai, in questi giorni preparativi, dunque la gente è un po' indaffarata, io mi saluto sempre perché come cuoco non vago niente, allora ci pensa mia moglie e il resto della famiglia qua a fare tutti i preparativi eccetera eccetera, io ho altre versioni, capito? Bulldozer, ci sei? Sì? Magari sei in ascolto, però è indaffarato, dunque non voglio forzarlo, ci mancherebbe altro. Avanti, veloci. Eia, Giulio, eia, cosa vuoi fare? Qua, siamo solo, vabbè, siamo solo, stanotte mi hanno invitato degli inquilini che abitano nel mio palazzo, mi hanno invitato a cena e dunque passerò il Natale da loro, la cena da con loro, perché mia madre non c'è, ha altri impegni, dunque va bene così. Ok, Giuseppe, purtroppo la vita è fatta di alti e di bassi, magari al momento perché fosse un momento così di stasi, mi auguro che tu possa risolvere ogni problema di lavoro e in generale, ma ci sono dubbi, non lo so, è un anno un po' pessimo questo è stato, in tanti versi. Ma sarà migliore il prossimo anno, almeno la speranza è quella. Avanti con chi? Positivo, per molto quello che hai detto. Sono andati bassi purtroppo questa vita, è così, e bisogna prenderla sempre con filosofia, non perdere mai la speranza, perché se no andiamo a finire proprio in mezzo al tunnel e non va bene. Bisogna essere sempre positivi e avere speranza. Tutto qua, vai Giuseppe. Giustamente me. adesso va che io martedì c'ho l'incontro con l'assistente sociale e l'altro, quello Antonello Tarantino, che è responsabile delle, di quelli che ti dà, che firma i contratti per il posto di lavoro. Io spero che mi faccia un buon regalo, un buon Natale, mi faccia passare un buon Natale rinnovandomi il contratto per il prossimo anno, speriamo. Ma io te la volevo tutto il cuore, guarda, con tutto il cuore, perché sei una persona che te lo meriti. E purtroppo, Giuseppe, tutti abbiamo le alte e basse. Vai Giulio. Sì, in effetti è così, ma diciamo noi classe di lavoratori già abbiamo le spalle larghe, sopportiamo tutto, sopportiamo anche questo, perché no? Tanto ormai siamo abituati, speriamo bene. Chi ci amministra che si metta un pochino così la mano sulla coscienza, o meglio nel cuore soprattutto, e pensare a chi effettivamente non ha tante velleità nella vita. Andiamo avanti lo stesso ogni volta, pensate almeno alla salute, quella che è la cosa più importante. Poi l'economia è chiaro che ci vuole, però se non c'è un pezzo di pane oggi, un pezzo di pane domani, e andiamo avanti, non è un problema. Avanti, perché? Sì, è normale che sia così, Giulio, è normale che sia così. Sì, poi il lavoro si spera sempre del bene, promesse se ne fanno tante, ma bisogna avere pazienza, purtroppo è così, non se ne fa la malattia, purtroppo quando arriva è ben accetto, quando non arriva purtroppo pazienza, bisogna avere pazienza, importante avere la salute come hai detto tu, e cercare di andare avanti nel migliore dei modi, un pezzo di pane, grazie a Dio, piano piano la si trova e non ci stanno problemi. Buonasera dalla città di ferro. Ciao Alessà, ciao, sono tu Alessà, è così infatti, in effetti sì, io sinceramente diciamo che le mie condizioni non sono da buttare, questo lo voglio dire, però mi metto nei panni di altre persone che hanno veramente necessità, pazienza, e cosa ci vuoi fare, comunque. Io spero sempre che la gente viva al meglio e che abbia sempre tutto ciò che desidera, perché ne abbiamo diritto tutti di vivere una vita decente, una vita piena anche alle volte di soddisfazioni e non solamente di sogni, perché i sogni trovano il tempo che trovano, oggi sogniamo e fra 10 minuti non sogniamo più, però la vita ha bisogno di certe cose e soprattutto di certe possibilità e di certe affermazioni. Io ripeto, 43 anni di attività artigianale, non mi sembra che siano pochi, e continuo a lavorare ugualmente, anche se sinceramente potrei farne a meno, questo lo posso affermare. Però, ripeto, siccome sono debole e penso alle difficoltà delle persone, me ne rendo conto e io, queste persone qua, hanno tutta la mia consapevolezza, ci mancherebbe altro. Avanti Alessandro, con buonasera. E capa. Capa, buonasera circolari, che dire, niente, ero qui che tra una cosa e l'altra stavo un attimino facendo l'ascoltone, ma no, non mi trattengo molto perché, diciamo, tra una cosa e l'altra mi hanno affibbiato il grembiule, logicamente scherzando, me lo sono messo da solo. Ok, signori, io ne approfitto, sono solo voluto entrare, diciamo, per innanzitutto per darvi un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio a tutti quanti circolari, adesso non sarà elencare, i vari ascoltoni che si sono, diciamo, in frequenza. Tanti auguri di buone feste, di buon Natale a voi e al familiare, e che l'anno nuovo ci porti, diciamo, delle buone sorprese. Tutte lì, rilancio Antonio Facchetto con il tiro a parte mia. quest'anno qua con la piacere, io ti rinnovo gli auguri a te, guerra familiare, e ti rilancio a Giulio per gli auguri e poi a Giuseppe Leoncino, e così ascolti di Finalini e poi ci si riascolta. Vai Giulio. Ok, ciao Alessandro, grazie per essere entrato a salutare e grazie anche per gli auguri che io ricambio di cuore a te e alla tua famiglia compresa, cioè, chiaramente. Anche Cagnolino ne sa, perché anche lui milita, ci mancherebbe altro, anche lui non è semplicemente milita di farsi la sua vita anche lui. E io ti rinnovo ancora gli auguri, ti rilancio il microfono a te Giuseppe, vai Giuseppe per gli auguri Alessandro. Figa. Ciao Sandro, buonasera. Io ti faccio migliori gli auguri di Buon Natale a te, alla famiglia, e spero di sentirci domani, dopodomani e compagnia bella di nuovo. Vai tu, Falchetto, per Sandro. Io ho già salutato, non so se Sandro sia ancora d'ascolto. Sandro, se d'ascolto ti abbiamo salutato con cuore. Evidentemente ha dovuto lasciare la radio perché, come avete sentito, gli hanno messo un grembiule e lui deve essere imbaffato. Evidentemente lui si intende anche di cucina, a differenza di me che mi prendo di fare la media, non di cucina. E cosa mi dici di me? È proprio così, dai, ognuno il suo, Giulio, ognuno il suo. Beh, certo, anche se so che non è esattamente il mestiere che fa Alessandro, quello è tutto un altro mestiere, già lo so io, quale, però vuol dire che se la cava bene. Avanti, perché? Sì, ma è così. Ognuno il suo, ma è giusto che sia così, dai, è giusto che si sappia fare un po' di tutto, ma io lo stesso sono legato in cucina, è proprio zero, è inutile che mi metta le grembiule, ma no, so fare qualche cosina così, ma no, pessimina, dai. Beh sì, io la verità non ho avuto mai passione per la cucina, l'unica passione che ho in cucina io è mangiare, quella è l'unica passione, e ti dico guarda, adesso questo te lo voglio raccontare anche, una volta è stata male la mia, io mi sono dovuto mettere a lavare i piatti dopo pranzo, ma non te ne dico, qualche per carità, ma l'avessi fatto, ha incominciato a uscire dal lavandino schiuma, non finiva mai, più acqua buttata più schiuma usciva, perché come avevo lavato i piatti, in che modo? Avevo i piatti che mettevo un quantitativo di detersivo, e sì che alla fine, di questo detersivo ne avevo consumato quasi un pacco, avevo consumato, e allora io che cosa sapevo che non si doveva fare un rigu? Sono passati 2 ore, io sempre ando fatto con la bambina che cercando di far scendere questa schiuma e io non ci riuscivo perché più accomodavo e più schiuma ne veniva fuori dallo scarico, no, anziché scendere saliva, non l'acqua ma la schiuma. E a un certo punto mi chiamano, ma cosa stai facendo? Fate io la botte i piatti così, e dice, no, non si deve fare così per carità, se tu metti detersivo in ogni piatto è chiaro che a un certo momento esce solo schiuma e basta. Non te ne dico niente, ma il primo fatto qualche. È meno male. No, io le faccio le cose, ma. E beh, deve mettere la quantità giusta di detersivo, non è che. E proprio che poi ti esce tutta la schiuma. Vabbè, dai. Ma sbagliato si impara, dai, giù, che non è quello il problema. Io so, quando si impara, però anche se adesso magari posso avere anche imparato, ma non lo posso più. La preferenza è di mettere tutto la sua vive e ci pensa la macchina, si vuole di su. Se non metto a parte, poi sa, quando sarà il momento, ne ci pensa mia moglie o mia figlia. È tutto lì. Avanti, Giuseppe. Non ci sono problemi, per carità, ci sono tutti questi problemi, caro Giulio, per carità, va bene dai, signori, io vi saluto, rinnovo gli auguri nuovamente a tutti quanti, a tutti e due, a voi, alla vostra famiglia e tutto quanto che mi hanno chiamato, e ci sentiamo al limite, se coincide, la prossima volta, dai, ok, corretti per me, ci sentiamo di nuovo, dai. Ciao ciao, e auguroni di nuovo, ciao ciao. Ok, dai, saluto di nuovo a te e rispettiva famiglia, dai, vai giù. Ok, ciao Giuseppe, salutoni, buon divertimento, allora auguri a te e anche ai tuoi amici che ti ospiteranno stanotte, ci sentiamo le prossime eventualmente. Ok, tu mi fa che? È così, eh. Va bene, dai, io riprendo per ricordare saluti, gli auguri, è tutto Giulio, dai, ci si riascolta. Auguri a te, guerra familiare, e sperando tutto bene, ci riscoltiamo alle migliori. Ciao Giulio, mi ha molto piacere. E ok, a tu, ok, anche a me. Anche a me, sinceramente, mi ha fatto molto piacere di ascoltarti, anche perché avevamo da tempo adesso senza ascoltarci. Salutoni, auguri a te, famiglia, e anche qua adesso la banda, qui tutta la banda dei parenti, e dunque incominceranno tutti i preparativi. E di conseguenza stanotte si farà anche molto tardi, come tutti del resto. Va bene, ciao, auguri ancora, come fa che alle prossime, alle 20, magari ci sentiamo anche domani, chi lo sa. Ciao ciao, e per me passo con le ti, ciao. Ciao Giulio, ciao ciao ciao.